E oggi sono qui per parlarvi un po' appunto di erbe e streghe. Allora, le erbe, gli infusi, le tisane che tutti noi oggi conosciamo e forse tutti usiamo, vengono da molto lontano, ovvero da queste donne che erano considerate guaritrici, raccoglitrici, farmaciste e medichesse ed erano anche considerate delle streghe. Diciamo che dietro tutti questi miti e leggende si nasconde una storia molto tragica che ha fatto anche molte vittime, e questo perché erano tempi di povertà, di carestia, di disastri naturali e quindi è stato molto facile cercare un capro espiatorio, in questo caso donne del popolo, da incolpare e da accusare di stregoneria. Esistevano anche degli stregoni uomini, però c'era molta discriminazione sessuale, per cui è stato più facile accusare le donne. Infatti, prima di una sciagura c'era sempre qualcuno che dichiarava di aver visto nei pressi di campi delle donne che facevano strane danze e volavano su manici di scopa. Esistono anche Va bene, va bene. diciamo che al giorno d'oggi nei verbali che ci restano dei processi di stregoneria ci sono effettivamente delle dichiarazioni di donne che sostenevano di aver davvero volato su manici di scopa e di aver visto forse anche le loro compagne volare. Questo perché le donne di un tempo, forse per evadere un po' da questa quotidianità un po' pesante, durante le notti di luna piena si recavano ai Saba, che erano degli incontri in cui dicevano che partecipavano anche i demoni, il diavolo, in cui queste donne in preda sostanze, ballavano nude e facevano dei riti magici. Comunque l'origine delle streghe è molto lontana, infatti in tutte le civiltà più antiche esistono simboli legati un po' al soprannaturale. Però appunto quando si è scatenata questa grande caccia alle streghe che hanno messo le loro radici profonde, queste credenze. Il culto principalmente veniva tramandato tra donne, in particolare da madre e figlia, e insieme a tutte le conoscenze di tipo erboristico e a tutte le pratiche rituali, e venivano considerati dei segreti meravigliosi e molto preziosi. Esistevano due tipi di magia, la magia bianca e la magia nera. La magia bianca aveva principalmente lo scopo di guarire, e quindi erano un pochettino un punto di riferimento. Mentre invece, anche perché all'epoca c'erano molte malattie ed erano anche frequenti le malattie epidemiche, forse per le scarse igiene in cui vivevano. Mentre invece la magia nera comprende tutto l'insieme di prodotti, di attività, di rituali che venivano invece usati dalla strega allo scopo di vendicarsi, di arrecare danno, o addirittura a volte di uccidere una terza persona. Quindi queste donne si recavano nei boschi, nei prati, raccoglievano foglie, fiori, radici, erbe in base a quello che le serviva e in base a quelle che erano le loro conoscenze e preparavano infusi, decotti, tisane o unguenti da spalmare per via esterna. Diciamo che un ruolo importante in questa storia l'ha avuto la chimica. Quindi un particolare gruppo di molecole, che tutte le erbe contengono delle molecole e delle sostanze chimiche che hanno un effetto terapeutico oppure anche tossico, e queste sostanze vengono chiamate principi attivi. I principi attivi possono essere contenuti in diversi organi della pianta e vengono chiamati. Le parti della pianta in cui c'è la maggior concentrazione di principio attivo viene chiamata droga. Quindi queste sostanze, la concentrazione di queste sostanze nelle piante varia molto in base al luogo di raccolta in base al clima e in base anche al periodo di raccolta, perché ci sono dei periodi in cui questi principi attivi sono più presenti e altri meno. Quindi era molto difficile per loro fare delle lisie e delle pozioni che avessero sempre lo stesso effetto. Perché se un principio attivo è presente in dose giusta può avere un effetto terapeutico, se contenuto in basse dosi può non avere effetto, se invece contenuto in dosi molto elevate può avere effetti tossici, appunto. Quindi diciamo che loro usavano la chimica anche se non erano molto consapevoli di farlo. C'è una testimonianza di un farmacologo spagnolo che ha dichiarato di essere entrato nel XVI secolo a casa di una donna che poi è stata appunto accusata di stregoneria e aver trovato un vaso pieno di un unguento verdastro che conteneva cicuta, belladonna, mandragora e giuspiamo, che sono tutte piante che sono molto tossiche. Queste donne non sapevano cosa facevano, però avevano capito che queste erano delle sostanze non solubili in acqua, infatti loro le mettevano in un grasso in olio che poi veniva spalmato sulla pelle e in questo modo i principi attivi entravano in circolo perché venivano assorbiti per via epidermica. E queste sostanze appunto vengono chiamate, sono degli alcaloidi, che sono delle sostanze che se assunte in dose elevate hanno potenti poteri allucinogeni. Quindi probabilmente anche durante questi sabba le donne erano in preda agli effetti di queste sostanze, per cui forse loro davvero avevano visto le loro compagne volare o forse pensavano di volare su manici di scopa. E noi qui vicino abbiamo Triora, che è conosciuto come il paese delle streghe, e qui nel 1587 iniziò una sanguinolenta caccia alle streghe. Vennero catturate 13 donne, due dei quali si suicidarono, e le altre invece puntarono tutto il dito contro una donna di Triora, che veniva considerata la strega più potente del paese, e si chiamava Franchetta Borelli. Questa donna venne catturata e venne poi portata nelle carceri di Genova e dopo 48 ore di torture, diciamo, in preda al delirio sul vento che volava fuori dalla finestra, si è lanciata dalla finestra e leggende dicono che il corpo non sia mai stato trovato perché si pensa che il diavolo in volo l'abbia preso per portarlo via e conservare l'anima di questa donna. Vabbè, questa era una curiosità. Adesso parliamo un po' di erbe. Partiamo dalla magia bianca. Questo è il tarassaco, è un fiore che penso che conosciamo tutti perché è molto diffuso. Adesso si trova nei campi o al ciglio delle strade. Viene chiamato anche dente di leone, soffione o biscialetto. È una pianta erbacea perenne, fa questi fiori gialli che poi si sviluppano, formano un achenio, che è il soffione che tutti conosciamo, e poi grazie all'azione del vento i semi si staccano da questo soffione, fa da paracadute e in questo modo favorisce la diffusione della pianta. È per questo che è così presente, perché il vento la porta un po' da tutte le parti. Il tarassaco ha diverse proprietà, ha proprietà depurative, colagoghe, cioè favorisce l'evacuazione, la purificazione e l'evacuazione delle vie biliari, diuretiche, da qui il nome piscialetto, eupleptiche, amarotoniche e blandamente lassative. La droga utilizzata, quindi la parte di pianta che ha effetto su di noi, è la radice o la foglia. In fitopratica viene molto utilizzata la radice per le proprietà depurative, si può trovare sotto forma di droga essiccata, taglio tisana o germoderivati o tinture madri, mentre invece in fitolimurgia, quindi in cucina, vengono utilizzate le foglie che possono essere utilizzate crude così come sono, condite con un po' d'olio e aceto, oppure cotte che prendono un sapore un pochettino amaro e in questo modo favoriscono la digestione. Poi abbiamo l'igerico, che viene chiamato erba di San Giovanni, il lebuchi o caccia diavoli. Anche questa è una specie erbacea perenne, sulle foglie delle ghiandole che, se si guardano in trasparenza, sembrano dei forellini, e da qui il nome perforatum. I fogli sono questo colore giallo-oro e hanno dei puntini neri sui petali, e se vengono sfregati colorano le mani di rosso, e questo è dovuto a una sostanza oleosa che è contenuta nell'iperico, che si chiama ipericina. Questa pianta è proprio il simbolo della vittoria sul male, della magia buona e di protezione dalle arti malefiche. È considerata la patria di tutti i mali e con forti poteri magici. Si chiama erba di San Giovanni perché tradizionalmente veniva raccolta durante la notte di San Giovanni, del 24 giugno, e già dal Medioevo, in questa notte magica, si mettevano dei mazzi di iperico sotto il cuscino, pensando di essere protetti dalla morte per un anno. Oppure nel Medioevo si appendevano fiori di iperico fuori dalle abitazioni, pensando che questa pianta proteggesse un po' dall'attacco di demoni e di diavoli, e da qui il nome caccia diavoli. Si dice che anche i cavalieri mettessero un mazzetto di iperico sotto la durante la guerra si portasse un mazzetto di iperico perché sembrava che li proteggesse, come anche le donne sotto le vesti mettevano un mazzetto perché si credevano di essere protette da eventuali violenze. Il vento ha proprietà rinfrescanti, astringenti, antinfiammatorie, analgesiche, antisettiche. Si utilizzano i fiori, insomma, da fiorite. In fitoterapia viene sfruttato il suo blando potere antidepressivo, mentre invece è molto utilizzato in cosmetica come normalizzante, diciamo, dell'epidermide per pelli secche o arrossate. Viene fatto un olio di iperico mettendo a macerare i fiori in olio di mandorle o d'oliva, e si ottiene un olio rossastro che va molto bene da mettere appunto sulla cute. Bisogna fare un pochettino di attenzione perché l'iperico è fotosensibile, quindi attira il sole, per cui se ci si espone al sole durante una cura di iperico, anche a livello esterno, provoca delle gravi, anche gravi scottature. Poi abbiamo la borragine, da noi molto conosciuta e molto utilizzata in cucina. Il nome deriva dal latino borra, che significa stoppa di grana ruvida, perché sulle foglie ha dei peletti e quindi risultano ruvide al tatto, e dall'arabo abuarak, che significa padre del sudore, probabilmente per le proprietà sudorifere della pianta. È una pianta annuale, fa questi fiori color azzurro, blu, violetto, che sono riconoscibili perché hanno questa particolare forma di stella, e le foglie appunto sono ricoperte da peletti grigi. La borragine ha diverse proprietà: ha proprietà emollienti, diuretiche, diaforetiche, quindi favoriscono la sudorazione, espettoranti e antinfiammatorie. Le proprietà diuretiche e diaforetiche sono dovute alla presenza di sali alcalini, e la droga utilizzata sono i fiori e le foglie. Le foglie vengono utilizzate da noi, sono ampiamente utilizzate in cucina per preparare spiedi, frittate, torte salate, oppure vengono anche cotte in pastella, e i fiori freschi vengono usati per aggiungere insalate miste, anche solo a scopo, a volte anche solo a scopo decorativo. Bisogna consumarla un po' con parsimonia, soprattutto le foglie, perché contengono degli alcaloidi pirrolizidinici che, se usati in grandi quantità, sono epatotossici, quindi tossici per il fegato. Però vabbè, non è la manciatina che noi mettiamo nella torta verde a intossicarci. Poi abbiamo la primula, anche qui molto conosciuta e molto diffusa da noi, tra questi fiori gialli a forma di imbuto. Esistono varie classi di primula. C'è la primula cabris, che ha fiori tendenti al bianco, che si trova in tutta Italia tranne che in Sardegna, oppure c'è la primula vera, veris, che si trova solo al nord, però hanno tutte le stesse proprietà. Ha proprietà espettoranti, decongestionanti, emollienti, antinfiammatorie, antispasmodiche. Vengono utilizzati radice, fiori e le foglioline laterali, ma le foglioline vengono utilizzate solo in cucina. In medicina la parte più utilizzata sono le radici, che hanno un'azione espettorante e decongestionante, e viene fatto anche un decotto che viene utilizzato per curare le forme bronchiali. Una volta viene usato per curare la malaria. Le foglioline invece vengono utilizzate in cucina, in insalata e in minestre. In alcune zone d'Italia si raccomanda una raccolta un po' ragionata e contenuta, perché è una pianta che è in via di estinzione, non da noi, ma in alcune zone sì. E anche qui i fiori spesso si trovano anche in insalata come decorazione. Poi abbiamo la polmonaria. La polmonaria in questo periodo si trova molto da noi. È una pianta erbacea, anche qui perenne. Le foglie sono pelosetti e hanno queste macchie più chiare, che una volta, secondo la teoria dei segni, queste macchie ricordavano un pochettino gli alveoli polmonari e quindi venivano utilizzate per curare le affezioni al sistema respiratorio. Ha questi fiori color viola, ma il colore varia molto in base al terreno in cui si trovano. Anche questa pianta, proprietà emollienti, espettoranti, diaforetiche e vitaminizzanti, vengono utilizzate i fiori e le foglie. Le foglie vengono utilizzate nelle minestre e il succo viene sfruttato per l'alto contenuto di vitamina A e C, e veniva anche utilizzato come remineralizzante. Oggi in fitoterapia non è più molto utilizzata, ma veniva usata appunto per affezioni alle vie aeree. Ora un po' di piante della magia nera. Quindi abbiamo la cicuta, che è questa qui. Sembra un pochettino prezzemolo, ma sembra tanto. Tanto quando è poi quando cresce cambia. Questa è la polmonaria, sì, con le quindi la cicuta è una pianta tossica, è una pianta erbacea biennale o perenne. Sembra un po' volerci avvisare della sua velenosità, perché quando cresce qui non si vede ancora, ma sul fusto presenta poi delle striature rossastre e ha un odore molto gradevole, soprattutto se viene spezzato a un forte odore di gatto o di topo. Sostanze responsabili della tossicità sono degli alcaloidi, sono due in particolare, la quinina e la gamma quinicerina, la cui concentrazione varia un po' in base al periodo di crescita in cui si trova la pianta. I sintomi di avvelenamento sono salivazione, tremori muscolari, spasmi e morte per collasso respiratorio. La dose letale è rappresentata da una manciata di frutti immaturi o da una decina di foglie. Non è molto frequente l'intossicazione volontaria, diciamo, perché si sbaglia a raccogliere la pianta, diciamo, da cicuta, però è frequente l'intossicazione indiretta, in quanto gli animali non sono esenti dalla tossicità della cicuta, e quindi a volte capita che in uccelli come la quaglia oppure nelle lumache ci sia un accumulo di questi alcaloidi, e quindi poi se noi lo mangiamo ovviamente ci trasferiscono e è probabile che ci intossichiamo. E questo è uno dei motivi per la quale si consiglia di far purgare un pochettino le lumache prima di utilizzarle. L'abbiamo vista anche prima, la cicuta in quell'unguento verdastro che facevano le streghe, ma qualche curiosità La cicuta, in America c'è una società promotrice dell'eutanasia che si chiamava Società della Cicuta, è un'organizzazione appunto per il diritto alla morte e al suicidio assistito, che è esistita dal 1980 al 2003, poi nel 2004 si è fondata con un'altra società e ha cambiato nome. E poi la cicuta, l'abbiamo vista, cioè tutti noi forse la conosciamo, per essere stata somministrata a Socrate. Poi Platone ha lasciato una descrizione sulla morte di Socrate e non è proprio in linea con gli effetti da tossicità della cicuta, quindi probabilmente gli era stato dato un mix di cicuta con altre erbe, o forse Platone voleva nobilitare un po' i sintomi della morte di Socrate evitando di entrare proprio nel dettaglio. Comunque già ad Atene nel V secolo si conoscevano gli effetti di questa pianta. Poi abbiamo il tasso, anche il tasso è molto diffuso, è un arbusto sempre verde. C'è. Sì, non si vedono le bacche le rosse, però c'è. Questo che può essere confuso. Sì, è facile confonderlo. Il tasso poi presenta queste bacche rossastre che contengono il seme. Ad essere velenosa è tutta la pianta, soprattutto le foglie e i semi. Anche qui le sostanze tossiche sono degli alcaloidi, in particolare la tassina che è tossica per il cuore. In questo caso anche gli animali sono sensibili all'avvelenamento da tasso. I casi di avvelenamento umano riguardano principalmente l'ingestione volontaria di tasso a scopo suicida. Poche manciate di foglie sono letali e a parte la lavanda gastrica o la somministrazione di carbone attivo per assorbire il veleno non esistono antidoti specifici. Il tasso è la pianta velenosa per antonomasia, infatti sul suo nome greco taxon è stato anche coniato il termine di tossicologia. La sua associazione con la morte ha un doppio significato, infatti da una parte la tossicologia per la sua velenosità e dall'altra in termini di tecnologia, in quanto il legno del tasso è molto elastico ed era stato usato per creare gli archi e le frecce. Infatti è stato documentato il ritrovamento di una lancia di tasso tra le costole di un mammut risalente a 50.000 anni fa. E ne parla già Giulio Cesare nel De Bello Gallico a proposito di un capo celtico che preferì suicidarsi col tasso piuttosto che arrendersi alle legioni romane, ma la sua velenosità è molto documentata anche in letteratura, da Shakespeare come nell'Amleto, anche Macbeth, dove le streghe avevano preparato un intruglio a base di taliere di tasso colte mentre la luna è in eclisse. Poi abbiamo lo stramonio. Lo stramonio qui da noi non è molto frequente, soprattutto trovarlo spontaneo. Ah sì? Comunque è abbastanza raro il tasso da noi. È una pianta erbacea annuale, ha il fusto che a volte è violaceo e ha questi fiori tubulari che possono essere bianchi o azzurro-violacei. Anche qui le sostanze tossiche sono gli alcaloidi, che sono detti tropanici, in particolare la scopolamina, che è volatile e penetra facilmente nel cervello causando delle allucinazioni. Lo stramonio è una pianta tossica molto velenosa e i risultati possono essere davvero gravi, soprattutto se la soluzione di stramonio viene abbinata anche all'alcol. Provoca secchezza della bocca, dilatazione delle pupille, incapacità di accomodamento, cioè l'incapacità di mettere bene a fuoco, di vedere a diverse distanze, tremore, tachicardia, allucinazioni, delirio e poi il coma. Questo alcaloide, la scopolamina, viene utilizzato oggi in medicina come farmaco antinausea e si ricava però da un parente dello stramonio tropicale. E, appunto, è molto tossica, è un singolo fiore, contiene fino allo 0,6% di scopolamina, e invece per, è del doppio della dose che si usa nei cerotti contro il mal d'auto. 10 fiori possono essere letali. Eccolo, guarda, arriva adesso. Non posso fermarmi, c'è gente, mi spiace. Adesso è chiuso. Sì, adesso è ancora chiuso. Adesso è chiuso, è questo. È chiuso. Sì, non è neanche tanto bello. No, è abbastanza bello. Non in voglia. Sembrano delle cose fuori. Comunque non è che se le trovi in allontanare, no, non è che è prezioso, era mamma le aveva chiamato, lo stramonio è chiamato anche erba delle streghe o erba del diavolo, perché adesso è associato il volo delle streghe, in particolare la sensazione di volare, che frequentemente è riportata in testimonianze di intossicazione da stramonio. Anche gli hippie negli anni 70, i figli dei fiori, fumavano lo stramonio. Sì, non erano le margheritine che fanno vedere nelle foto, ma erano, sì, era lo stramonio. E appunto alla morte d'avvelenamento, allo stramonio va anche associata la morte da comportamenti di sbarri, queste sono delle testimonianze di ragazzini che sono annegati in ruscelli con 10 cm d'acqua perché volevano vederselo tutto, oppure pensavano di avere le ali, di poter volare, e sono lanciati da edifici. Appunto, forse è l'allucinogeno più tossico che conosciamo. Viene anche definita pianta dei ladri perché si racconta che i briganti una volta aggiungevano semi di stramonio in liquori dal sapore gradevole e in questo modo riuscivano a drogare gli sfortunati riuscivano a venire a conoscenza di verità che forse non sarebbero mai state dette. Poi abbiamo l'oleandro, che è questo. L'oleandro è un arbusto perenne, fa questi grandi fiori rosa, rossi, è molto pericoloso e contiene delle, in questo caso, glicosidi cardiaci, che sono delle sostanze tossiche per il cuore. Il rischio di avvelenamento è basso perché ci sono delle sostanze che sono delle saponine che causano il vomito, quindi è facile che i glicosidi si buttino fuori prima che abbia effetti irreparabili. E poi ha un sapore molto amaro e quindi non fa venire molta voglia di mangiarlo. E adesso spontaneamente il tasso non si trova quasi più, ma è molto utilizzato come specie ornamentale. E i sintomi di avvelenamento sono nausea, vomito, diarrea, rallentamento del cuore, aritmia, tremori e collasso. Questi sintomi sorgono abbastanza velocemente dopo l'assunzione di tasso e quindi l'intervento deve essere deve essere immediato, quindi lavanda gastrica, carbone attivo oppure anticorpi antidigossina. Anche qui la letteratura riporta casi un po' curiosi sull'intossicazione da oleandro. Il più sorprendente, ma un po' dubbio, è che dei soldati di Napoleone usarono dei rami di oleandro per fare degli spiedini di carne e così il veleno passò dal legno alla carne, uccidendo circa una decina di soldati. E, hanno fatto anche un film, perché è un romanzo, che ha come base un'intossicazione da oleandro, che è White Oleander, in cui la moglie aveva ucciso il marito con un infuso di oleandro. La maggior parte dei casi di avvelenamento da oleandro vengono dalla California e qualche anno fa fece appunto scalpore, anche qui, però è successo davvero, non un film, il tentativo di una donna di avvelenare il marito con un decotto di oleandro per incassare un'assicurazione sulla vita, ma non ce l'ha fatta il primo colpo, per cui quando è arrivata a casa l'ha ucciso con una bibita frizzante aggiungendoci al proiettile. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato tanto.